nostri soldi su una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Ma come hanno reagito i mercati finanziari all'annuncio del presidente americano Bush sulla tregua nel Golfo? Sentiamo Everardo Dalla Noce in collegamento dalla Borsa di Milano. Amici ascoltatori, buongiorno. Dunque, c'è un'antica regola di borsa, un'antica regola dei mercati, in particolar modo del mercato delle azioni. Quando grandi avvenimenti sono previsti o sono in previsione, ebbene il mercato sale, lo avete visto anche nei giorni scorsi. Però quando c'è l'annuncio del grande avvenimento che si è risolto, ebbene allora il mercato corregge la sua posizione. Questo è quanto sta accadendo. Milano, mentre vi parlo, ha un più 0,2%. C'è anche da dire che oggi poi è la giornata della liquidazione, quindi una giornata tecnica importante. Diamo un'occhiata al mondo dei cambi, quello che sino ad oggi, sino a questo momento, è stato fissato qui in Piazza Affari. Il dollaro ha chiuso a 1136,50, vuol dire che è diminuito di due figure. Do un'occhiata al Marco, ha già chiuso il Marco? No, il Marco non ancora. Quanto è questo? Dovrebbe essere circa 747,70 circa. Ecco, quindi Marco in leggera diminuzione. Io direi che vi ho raccontato tutto. La linea va allo studio. Memorabile a dire poco. Allora, abbiamo ascoltato, riascoltato Everardo Dalla Noce, che è scomparso ieri. Abbiamo voluto fare come omaggio qui a Due di Denari, no Deborah? Perché in un certo senso Dalla Noce è colui che ha inventato la divulgazione finanziaria sui grandi mezzi di comunicazione. Non che prima non si dessero le notizie di borsa o economiche, ma proprio questo modello di diretta dalla borsa, vi diciamo quello che sta accadendo momento per momento, le quotazioni e le valute, beh, questo è stato l'invenzione di Everardo Dalla Noce. Io ero davvero impressionata della modalità con cui lui raccontava quello che stava accadendo in quel momento in borsa. Naturalmente lo faceva dalla sala delle grida, adesso è tutto telematico, per cui non esiste più niente di fisico. E quindi io per esempio ho perso quell'opportunità, perché da quando la racconto io già la sala delle grida non c'è più. Detto questo, mi colpiva molto il linguaggio che utilizzava, perché veramente sono delle prove tecniche anche di educazione finanziaria che in quel momento lui faceva nella piena inconsapevolezza, perché raccontare in maniera così semplice la giornata dello stacco del dividendo, oggi è giornata di liquidazioni, ha detto. Sì, e infatti si era molto, sentito in dovere di dire giornata tecnica, quindi non importa se non capite proprio tutto, però intanto segnatevelo, perché è importante. Un'altra cosa interessante che ha detto: sull'arrivo di notizie il mercato vende e scende, noi lo chiameremo questo fenomeno il sell on news, vendere sulla notizia. Vedi? Vabbè, ma tu l'inglese lo conosci, però sì, però insomma sono cambiate molte cose, ci dispiace. Secondo me Dalla Noce non avrebbe mai detto sell on news. E soprattutto insomma lui raccontava di questa reazione del mercato rispetto ad alcune iniziative prese dal presidente americano Bush, e anche da lì sono passate delle ere geologiche. Detto questo, caro Mauro, non parleremo oggi di Everardo Dalla Noce. No, anche perché tu non eri nemmeno nata. Non esageriamo, quando... io invece l'ho conosciuto personalmente, ero nata e come, però mi ha stimolato a proseguire nella mia carriera giornalistica, ne sono ben felice. Insomma, però... mai avrei pensato di fare quello che faceva lui. Deborah, oggi non parliamo di Everardo Dalla Noce, però in un certo senso ci poniamo nel solco di quell'educazione finanziaria che lui ha avviato proprio con i suoi collegamenti in diretta dalla borsa. Perché oggi parliamo della scelta del consulente, che è un tema che sempre appassiona chi segue Due di Denari, e molti ci scrivete e potete farlo anche oggi, ci chiedete: ma come faccio io a individuare una persona di cui ovviamente fidarmi, una persona corretta, onesta, questo ci mancherebbe, lo diamo proprio come caratteristica fondamentale, ma anche chi può consigliarmi al meglio, può assistermi al meglio anche per un periodo molto lungo, perché poi l'investimento non si risolve in qualche giorno. Anche perché questo è un mondo molto ricco, molto popolato, di figure anche professionalmente parlando diverse. Qualche volta invece il risparmiatore non riesce a cogliere le differenze, fa di tutta l'erba un fascio secondo il cliente finale. Magari la persona che ti segue in banca è la stessa identica persona che può farti una consulenza di altro tipo, quella che oggi si definisce su base autonoma. In tutto questo c'è il mondo anche degli ex, chiamiamoli così, promotori finanziari, che oggi secondo la nuova legislazione si chiamano consulenti finanziari. Insomma, è un mondo da capire bene, e quindi stamattina abbiamo naturalmente diverse professionalità che ci aiuteranno a fare le giuste distinzioni, ma soprattutto abbiamo anche un consulente cartaceo. Certo, in anteprima mondiale, come diciamo sempre qui, esatto. Lo facciamo vedere subito a chi ci segue su Facebook. Abbiamo la terza uscita, della guida al nuovo risparmio, che tutti i giovedì, oramai lo sapete, viene data con il Sole 24 Ore insieme al nostro quotidiano, quindi domani ci sarà questa terza puntata, che è molto importante perché è proprio dedicata alla scelta del consulente. Tra l'altro, ma poi ce ne parleranno i nostri ospiti, in particolare Gianfranco Ursino, che è qui con noi in studio, è una guida molto molto pratica, esatto. Cioè contiene degli aspetti molto pratici per mettersi anche alla prova personalmente e capire che cosa vogliamo dal nostro investimento e quindi come possiamo scegliere al meglio il consulente. Allora, intanto noi possiamo invitare, come facciamo sempre, i nostri ascoltatori ad interpellarci in diretta all'800 24 00 24. Raccontateci a chi vi affidate per la gestione dei vostri risparmi e secondo il vostro punto di vista come va fatta questa relazione. Abbiamo lanciato anche un sondaggio su Twitter, l'abbiamo fatto da ieri pomeriggio, chiedendovi, quindi potete andare di nuovo a recuperarlo e mettere se volete la vostra risposta, chiedendovi se per la gestione dei vostri risparmi vi rivolgete a promotore della banca, un consulente della banca, un promotore finanziario, un consulente indipendente o un amico, un parente, un collega, perché capita pure questo, fino al totale fai da te, cioè che si fida solo di se stesso, e a quanto pare, almeno a giudicare dai risultati raggiunti dal sondaggio fino a questo momento, effettivamente il fai da te, che noi non auspichiamo per nessuno, a quanto pare sta avendo la maggiore. Ma sì, dopo perché risulta il 64%. Potete però votare e modificare questi risultati, che vedono al 14% in questo momento il consulente indipendente e a un 14% pure il promotore della banca, poi c'è un 8% per l'amico, parente o collega e la maggioranza invece largamente va al mi fido solo di me stesso. Chiocciola 2 di denari è a numero, attenzione, 2 è scritto proprio la cifra 2 di denari, su Twitter ci trovate molto facilmente e potete votare e raccontarci come scegliete l'investimento. Il mio bancario è un consulente, lui mi risponde di domenica, risolve tutti i miei problemi senza neanche far la predica. Il mio bancario è il confidente di quasi tutti i miei segreti, mi amministra le sostanze senza tante formalità. Maurizio Buffi, presidente di ANASF, non è balzato sulla sedia all'ascolto di questa canzone. Sa chi è l'autore? Non lo ricordo, però ho sorriso perché ce l'ha al suo fianco. Ah, complimenti. Mauro allora. Meazza, frontman dei Chapter 11, e si dilettano appunto nella composizione di brani come pop economico tributario con venature giuslavoristiche e quindi è anche finanziaria adesso, sì, ci devi aggiungere certamente perché... No, noi appunto con gli amici e colleghi Stefano Elli e Marco Loconte componiamo queste canzoni di pop tributario per fare a nostro modo, insomma, ma sorridendo educazione finanziaria, non è una cosa fiscale, seria naturalmente, prendiamo perché un po'... tutto nasce dalla tua passione per il trust. Sì, è la prima trust, canzone il pianto del contabile, che è un brano anche molto famoso, che noi consideriamo fondatori del filone tributario. Proviamo ad alleggerire, presidente Buffi, il presidente dell'ANASF, l'associazione dei consulenti finanziari, qualche volta la trattazione di questi argomenti per renderli un pochino più tra virgolette digeribili agli ascoltatori, ai nostri amici risparmiatori, però anche perché il linguaggio è importante quando si parla di questi argomenti. Intanto fate bene. Allora, 800 24 00 24, ricordo ancora il numero verde per intervenire in diretta. Facciamo l'ABC di questa guida, lo facciamo con Gianfranco Ursino del Sole 24 Ore, adesso a prescindere dal fatto che a noi interessa veicolare un'iniziativa del Sole 24 Ore, ma ci piace molto l'approccio, il metodo che è stato utilizzato Gianfranco per scrivere e parlare di consulenza finanziaria, che potrebbe essere un termine così astratto, anche esatto, nel, molto, molto largo. Nella scelta, no, di una figura professionale che dovrebbe essere proprio quello che ti gestisce, no? I tuoi risparmi, no? Perché noi oggi come oggi pensiamo durante la nostra vita lavorativa a farli i soldi e poco a gestirli, poi ci pensiamo a un certo momento della pensione quando forse è un po' troppo tardi per delineare, no? Una cosiddetta asset allocation strategica a quel punto della vita. E nel fare questo volume abbiamo cercato di, proprio io che sono come curatore, diciamo, no, del volume, ho cercato di dare dei suggerimenti pratici. Suggerimenti pratici, cosa significa? In questo manuale la gente deve trovare il modo di avere un aiuto per approcciare la scelta del consulente, che deve basarsi su un rapporto, certo, di fiducia, su un rapporto di fiducia che va costruito nel tempo, nel senso che noi diciamo sempre la fiducia prima di tutto, ok, no, ok, però è il punto di arrivo nella scelta, e perché bisogna piano piano costruirsela, e qui vi diamo dei pratici suggerimenti su come fare, su come mettere alla prova la persona che hai di fronte. Esattamente, e il cliente è al centro della guida, diciamo, no, qui non troverete mai delle indicazioni su quello è più bravo dell'altro, quella figura professionale migliore dell'altra, esiste quella che va bene per il consulente che hai di fronte, che può essere il bancario, può essere il promotore finanziario, che adesso viene chiamato consulente finanziario abitato all'offerta fuori sede, consulenti finanziari autonomi, i private banker, qualsiasi tipo family office, qualsiasi tipo di persona che vi dà un suggerimento per gestire i vostri denari, come fare proprio a rapportarvi in maniera tale con, faccio un esempio pratico, no? Che poi la gente si ritrova nel volume, è quello per esempio di stilare una sorta di verbale di consulenza. Verbale di consulenza, e vi dico soltanto l'incipit iniziale di questo verbale, che vi aiutiamo anche, no, nel formularlo, quali sono le domande da porre alla persona che ti trovi di fronte, con la scaletta e tutto quanto il resto, è quello che ti aiuta un attimino a responsabilizzarlo. Già chiedere in banca, pensateci bene un attimo, chiedere in banca il nome al consulente, no, che ti trovi di fronte, allo sportellista che uno si trova di fronte, già chiedendo il nome all'inizio del colloquio, scriverlo su un foglio di carta, sicuramente lo responsabilizzi, perché in banca sappiamo che dopo 2 o 3 mesi, no, ruotano e quindi naturalmente forse non si sentono così responsabilizzati, certo, perché comunque poi vengono spostati da una filiale all'altra. E quindi per dirvi i pratici suggerimenti che vi diamo. Poi un'altra cosa per farvi degli esempi pratici è quello di segnarsi passo passo quali sono anche il primo, il secondo, il terzo strumento che vi propone, in maniera tale poi da valutare anche ex post, no, quello che sono stati i consigli dati nell'arco, diciamo, dei vari colloqui che si susseguiranno. Quindi è un percorso che deve essere fatto, e noi vi aiutiamo a farlo partendo non tanto dal verbale che vi dicevo di consulenza, che poi vi invito anche a sottoporlo alla firma della persona che si trova di fronte, però anche se poi la persona non firma il verbale, comunque è un valido strumento. Voi lo mettete alla prova, non è tenuto a farlo. Esatto. Anche sono se sarebbe, appunti privati che sarebbe, vedo un po' dura, però sarebbe però una linea da portare avanti. Anche la stessa MIFID, c'è un considerando dentro la MIFID, no, che cui avete tanto sentito parlare, non entriamo adesso, su questo adesso aspetto, introduciamo anche di nuovo questo che argomento. Fa riferimento al verbale, visto che tutti i colloqui che vengono fatti anche al telefono per impartire gli ordini tra consulente, banca e risparmiatore, devono essere registrati, e c'è il riferimento in cui dice che sarebbe opportuno anche fare un verbale dei colloqui vis-à-vis, e quindi non è una cosa che è così strampalata, no, è una cosa che secondo me potrebbe aiutare a stimolare fare quel rapporto di fiducia, no, che bisogna creare, visto che oggi come oggi, no, non è più questo è effettivamente così ormai, se pensavamo qualche anno fa, non è più la banca che deve darti fiducia al risparmiatore per concederti un prestito dicendo, ma forse il viceversa, è sempre di più il risparmiatore che cerca, no, di avere fiducia nelle banche alla luce di quello che è successo in questi ultimi anni. Ecco, diciamo che non brillano adesso per relazione di fiducia, non sono nel loro momento in migliore. Questo momento, proprio in questi giorni, stiamo assistendo anche a tutte le puntate delle audizioni alla commissione d'inchiesta appunto sulle banche. Oggi tocca tra l'altro a Zonin, proprio nelle giornate in cui si è aperto il processo contro la Popolare di Vicenza. Mauro, io faccio un passo indietro, ma sempre stando sulla guida che ci stava illustrando Gianfranco, perché addirittura questa parte in cui mettiamo alla prova o prendiamo comunque nota di quello che la persona che abbiamo di fronte, che ci sta aiutando, che ci deve aiutare ad allocare i nostri risparmi, ecco, prima ancora di quel momento, di quel verbale, la guida che distribuiamo domani con il Sole 24 Ore è aperta da una checklist che uno si fa in autonomia per verificare che cosa vuole dal proprio risparmio, che è una cosa che qui a Due di Denari sentiamo spesso dire, ripetiamo spesso e sentiamo dire dagli esperti, dai professionisti del settore. E che però le persone difficilmente quanto posso risparmiare, perché sto risparmiando, che cosa mi aspetto dal mio risparmio. Allora trovate proprio una checklist di 3 paginette che è molto semplice, con il linguaggio, ci siamo sforzati, no Gianfranco, di fare veramente, di utilizzare un linguaggio il più possibile comprensibile, non tecnico, no, per così dire. È una sorta di autodiagnosi in questo caso, con la checklist che vi proponiamo di fare prima di andare a incontrare il vostro consulente, mentre ad arrivare preparati, perché poi quando ci troviamo di fronte alla persona che pomposamente ci venderà quel prodotto, ci proporrà di fare quel tipo di scelta, non dal punto di vista finanziario, noi molto spesso, non essendo preparati, no? E pur di non fare la figura degli ignoranti, cosa sbagliatissima, perché se uno non capisce bene che chieda sempre più, perché non, se non si hanno le competenze non deve essere una vergogna, anzi, perché ognuno, voglio dire, nella sua vita professionale li sviluppa per il percorso. Bisogna che rivendicare il diritto all'ignoranza, ma ecco, e quindi non bisogna, anche questo è lo stress, questo concetto, no? di non preoccuparsi, no? Di fare domande, di fare la figura degli ignoranti. Però se uno arriva anche con una soltanto di autodiagnosi, che vi dicevo prima, di riflessione, che noi ti aiutiamo a fare con una checklist sulle cose che potrebbero essere servirti, no? In fase di colloquio, poi soltanto una lettura prima, no? Di andare in banca o dal tuo consulente, sicuramente ti aiuta ad affrontare il colloquio con più serenità. E in quel momento, no? È la cosa che vi serve di più. Molto spesso noi ci preoccupiamo, sentiamo noi questionario MIFID e lo viviamo come una scocciatura, no? E invece questionario MIFID non bisogna altro che rilassarsi e rispondere spontaneamente a quelle domande che ti vengono sottoposte. E soprattutto forse resistere, se magari la figura che hai davanti, ecco, ti propone un po' una forzatura nella compilazione di questo documento. Perché in quel documento, caso, se tu arrivi preparato, riesci anche a percepire queste pressioni che ricevi. Sì, ecco, io direi, adesso non possiamo generalizzare ovviamente, però è sempre un indice, a mio parere, ma ti chiedo appunto un consiglio su questo, un indice sospetto quando dicono: beh, ma non si preoccupi, tanto è tutta carta, firmi pure che facciamo questo aggiornamento della MIFID, la vecchia, perché poi dall'anno prossimo avremo quella nuova che è ancora, se possibile, più invasiva da un certo punto di vista. Ci dà sicuramente ulteriori mezzi, no? Per poterci difendere. Però se noi andiamo in banca, viviamo questo come un momento di, come dicevo prima, di scocciatura, che non guardiamo quello che firmiamo, che non diamo nemmeno le risposte, o se le diamo sono già comunque indirizzate da chi, dalla persona che ti trovi di fronte, alla fine la MIFID, perdonate, in questi 10 anni è servita più alle banche per deresponsabilizzarsi sotto un certo punto di vista, con quel foglio di carta che ti hanno fatto firmare, che ha dato un aiuto poi per poterlo poi farlo valere. Mentre dovrebbe sede essere una cosa per fare esattamente la fisionomia, quindi, del risparmiatore, i suoi obiettivi, e anche capire quanto può e vuole rischiare. Poi naturalmente ognuno, lo ricordiamo sempre, è libero nelle sue scelte di investimento. Qualcuno può anche comprare cose peregrine, e sappia però che lo fa a suo rischio, insomma, certo, deve essere informato sui rischi. Presidente Buffi, allora, tutto questo in linea teorica potrebbe sembrare facile, ce la racconti un po' invece dal punto di vista del consulente finanziario, no? Perché c'è sicuramente quelli che magari hanno tutto l'interesse ad arricchire il proprio portafoglio, perché da quello ne deriva anche la propria remunerazione, il proprio reddito, perché naturalmente sono dei professionisti che lavorano come tutti. Dall'altra parte, qualche volta provare a spronare anche il cliente nel assumere piena consapevolezza rispetto a tutti questi aspetti non è esattamente facile, perché sappiamo molto bene che molti arrivano da voi con un unico obiettivo: chiedervi quanto renderà il portafoglio che voi suggerirete di gestire, di investire in qualche maniera. Insomma, fare anche educazione finanziaria su tutti questi temi che abbiamo indicato fino a questo momento non è per nulla facile. Sì, molto spesso è così. Lasciatemi dire innanzitutto che trovo assolutamente meritoria questa vostra iniziativa, questa come altre, di indicare in modo semplice e diretto quelle che sono le regole auree, diciamo così, di un rapporto consapevole tra risparmiatore e consulente. Su questo c'è tantissimo da fare. Allora, la prima responsabilità sicuramente è in capo proprio agli operatori, perché di fatto quelli bravi sono quelli che fanno al tempo stesso attività indirettamente di educazione finanziaria, banalmente perché la consulenza che cos'è? È la raccomandazione personalizzata su singoli strumenti o servizi di investimento. Tra l'altro la normativa, senza che adesso ogni volta la citiamo, dice parole chiare in questo senso, e cioè c'è una responsabilità in capo all'operatore qualificato di far comprendere e spiegare gli elementi essenziali delle operazioni che vengono poste in essere. Quindi assolutamente così dovrebbe essere, così è nella realtà, nelle migliori best practice, ovvero sia nelle migliori condizioni in cui il mercato ha sviluppato proprio queste professionalità. E viceversa c'è tutto un mondo che invece utilizza, e lo sappiamo bene, l'avete detto anche voi, questi strumenti come elementi ridondanti, come elementi sostanzialmente di a volte autotutela piuttosto che di tutela, responsabilizzati. E questo ovviamente non va bene, ma voi lo dite bene in questo incipit iniziale della vostra iniziativa editoriale, alla continua ricerca di competenza e fiducia. Lo diceva bene prima Orsino, la fiducia è l'atto finale, non è un atto iniziale, altrimenti diventa un elemento di fideismo, non di fiducia sostanzialmente. La fiducia va costruita nel tempo, va verificata, e questo è un rapporto che va sia nella direzione del consulente nei confronti dell'utente, del risparmiatore, soprattutto quando questo risparmiatore si accinge a lasciare i panni del risparmiatore e prendere quelli dell'investitore. Che è un momento molto delicato, è un momento in cui tra l'altro gran parte della popolazione italiana, per motivi storici, culturali, ambientali eccetera eccetera, non è stata attrezzata. Quindi c'è tutto il tema qui dell'educazione finanziaria, che è un tema estremamente impegnativo. È direi quasi tra virgolette un'emergenza nazionale tra le tante, visto che siamo ben in fondo in classifica. E dall'altro l'operatore di essere in grado di esprimere quelle capacità in termini di competenze oggi sono assolutamente necessari, ma lo erano già ieri, ma oggi ancora di più, di capacità relazionali, che tradotto non vuol dire parlare, ma semmai il contrario, ascoltare, lo diceva prima bene Meazza, cioè la checklist iniziale, sapere cosa vuoi fare del tuo risparmio. Gianfranco Orsino nella guida scrive: stare alla larga da chi guarda prima il patrimonio e poi la persona, per me è un suggerimento sacrosanto. Poi guardate, l'esperienza ci dice una cosa, l'esperienza è notevole sequela di indagini a questo riguardo. Alla domanda semplice, banale, cristallina: perché si risparmia? La risposta è, il più delle volte, per motivi precauzionali. È la prima risposta che si dà. E quindi questo non ci stupisce. Ma se il motivo precauzionale è quello che spinge a risparmiare, e tutti noi lo abbiamo tendenzialmente, poi bisogna sostanzialmente scendere più nel dettaglio e capire quel risparmio, che è di natura precauzionale, quindi una sorta di riserva sostanzialmente, poi come va finalizzato. Quello che diceva prima Orsino, cioè va finalizzato in una logica di pianificazione. Perché è inutile pensare a delle cose. Lui faceva l'esempio dell'integrazione pensionistica a 60 anni, non serve più, o comunque richiederebbe risorse talmente ingenti che evidentemente poi non sarebbero sufficienti al raggiungimento dell'obiettivo. Quindi in questo rapporto consapevole, adulto, professionale, che è capace di sviluppare da una parte e manifestare le proprie competenze, lato consulente, e dall'altro invece sviluppare le capacità di saper riconoscere le proprie esigenze. E questo è il lato risparmiatore. Allora raccontateci se avete questo tipo di relazione con il professionista che sta seguendo la vostra pianificazione finanziaria, se l'avete fatta con il vostro consulente. Fate un attimino un vostro check up così al volo e poi raccontatecelo all'800240024. Io intanto mi travesto da Everarda D'Annunzio. Esatto, tu Everarda, per oggi ti vorrei chiamare così, Everarda. No. Io, però prima vorrei fare anch'io il mio piccolo Everardo, ti do l'aggiornamento del nostro sondaggio. Vai. Twitter. Allora, ha recuperato qualcosa il promotore della banca, sta al 18% delle scelte, il 13% dice sì, che mi affido a un consulente indipendente. Buffi salta sulla sé, promotore della banca, noi perché abbiamo voluto sintetizzare, sì, nel abbiamo sondaggio voluto semplificare. La figura non esiste esattamente dal punto poi di c'è comunque, resiste a un 61% il mi fido solo di me stesso, che bah, vabbè, insomma sì, saranno tutti persone preparatissime sicuramente, e un 8% amico, parente o collega. E a questo punto, Deborah, le borse. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta due di denari. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. Allora, prima di arrivare ai Beatles devi ancora fare tanta di quella strada, fare un sacco di puntate di due di denari. No, però mi fa piacere che nella stessa puntata abbiamo messo insieme i Beatles e i Chapter 11. Vuoi leggere quello che ti scrive l'ascoltatore? No, perché voglio, tu sei un po' invidioso di quelli che invece mettono la mia voce nella loro suoneria telefonica quando dico voluntary disclosure. Però anche tu hai la tua gruppetta. Sì, di ho delle persone che mi stimano e mi apprezzano. Ma anche musicalmente. Dai, no, è divertente. Io adesso dico solo che in questa puntata abbiamo fatto proprio si licet parva, come si come dicevano i latini, cioè se è lecito comparare le cose grandi con quelle molto piccole, dove naturalmente quelle grandi sono i Beatles. Torniamo a cose molto urgenti invece, cioè la scelta del consulente finanziario, della persona a cui chiedere un consiglio e magari affidarsi. Farsi accompagnare per un po' di tempo, diciamo, non è il consiglio estemporaneo naturalmente, no, quello che ci segue, ma fare della pianificazione finanziaria, perché abbiamo degli obiettivi di sicuramente breve termine ma anche di medio e lungo, e quindi l'approccio, diciamo, un po' caldeggiato dalla guida del Sole 24 Ore ma da tutto il mondo della consulenza è un po' questo, quindi strategico e non tattico. Presidente Bufi, sì, assolutamente, che si fa un po' di fatica. Sì, si fa fatica, ma bisogna insistere, perché ripeto, rispetto alle esperienze che viviamo tutti i giorni, questo ci dicono, cioè bisogna, lo diceva bene poco fa, essere accompagnati nelle scelte. Queste scelte dovrebbero essere le più consapevoli possibili, questo è il senso delle cose. Naturalmente, poi le esigenze non sono solo assolutamente solo di breve termine, sono di breve, di medio, di lungo termine, vanno tutte come dire, messe insieme e distribuite in un arco temporale che ovviamente è diverso tra il trentenne e il sessantenne, per ovvi motivi. Ovvio. Allora, Mauro, so che non ci tiene particolarmente, ma io invece ci tengo. Noi curiamo anche una rubrichetta finale della guida che esce con il Sole 24 Ore Nuovo Risparmio, perché su questa così un po' rielaboriamo le richieste che ci arrivano anche da parte degli ascoltatori che ci scrivono a due di denari chiocciola radio 24.it, e ne abbiamo messa una di queste testimonianze dalla quale ci siamo resi conto come molte persone, molti risparmiatori non abbiano neanche una chiara idea delle differenti figure professionali che ci sono sul mercato e che ci possono accompagnare. Io direi che prima di introdurre questo tema possiamo anche, Mauro, sentire una simpatica ascoltatrice. Certo, volentieri. Edi da Treviso, benvenuta. Sì, grazie, buongiorno. Ci dica. Io volevo solo portare un attimo la mia esperienza nel settore, e cioè io non ho un promotore finanziario, non ho un consulente finanziario, ho un medico di famiglia. Cosa vuol dire? Vuol dire che il mio, chiamiamolo impropriamente mio, consulente finanziario mi segue da 25 anni. E io non so se sono stata fortunata, se è una questione, non lo so. So che mi trovo molto bene, mi segue da 25 anni, non mi ha mai imposto, tra virgolette, nulla, e ancora oggi, quando ci vediamo, che come minimo lui di regola vuole che ci vediamo almeno 2-3 volte all'anno, oppure qualche quando c'è un qualcosa che va bene o che va meno bene, anche se io a volte gli dico ma guarda non ho tempo, lui mi dice guarda non importa, io domani vengo. E non ha mai insistito, e questa è una delle cose che invece ho notato e sento magari da altri, la pressione la pressione nel dire ma guarda c'è questo prodotto, guarda che è giusto per te, guarda. No, la sua domanda ancora ad oggi, anche se sono passati 25 anni, mi chiede ma tu che cosa vuoi, qual è il tuo obiettivo? Questo è il nostro nuovo idolo, Edi. Lei intanto, perché è pienamente consapevole della correttezza del rapporto, ma questa persona dopo 25 anni io l'ha fatto capire molto bene. Presidente Bufi, per lei non stamattina... ho altro da aggiungere, mi ritengo soddisfatto. No, la testimonianza della signora Edi è eccezionale, dimostra peraltro una cosa che in linea di massima non è così eccezionale. È vero che noi riscontriamo nel mondo della distribuzione prevalentemente, lasciatemi dire, nell'ambito bancario queste modalità molto push, ovvero sia compra questo perché me l'hanno detto sostanzialmente, e lo sappiamo, avviene anche nel nostro ambito, per carità di Dio, ma è stata sviluppata una tale sensibilità in questo senso, e la testimonianza dell'ascoltatrice è chiarissima, perché sottolinea intanto il rapporto di lungo periodo. La signora l'ha ripetuto 3 volte, sono 25 anni che sono seguito dallo stesso professionista, è la famosa alleanza di lungo periodo, è su questa che bisogna puntare. Addirittura si impone il collega, se credo sia tale, per cui dice: non ho tempo, no guarda è importante, ti vengo a trovare, perché alcuni elementi devono essere noti 2 o 3 volte l'anno, non serve tanto di più, 2 o 3 volte l'anno. Quando ti vengo a trovare? Quando c'è da modificare l'asset allocation, o piuttosto, sì, perché no, dei prodotti innovativi che fanno parte dell'evoluzione tecnologica e finanziaria del nostro settore, o quanto piuttosto se è cambiata qualche tua esigenza, perché nell'arco di 25 anni può capitare che le esigenze cambino. Quindi se avete un consulente, scusami, no, chiamatelo pure, non aspettate la chiamata, è lì che lo state pagando, quindi chiamatelo se avete avvertito un'esigenza vostra a livello dal punto di vista finanziario, economico, all'interno della vostra famiglia che cambia, avete un bisogno nuovo da soddisfare, chiamatelo subito per confrontarvi e capire se come avete impostato, no, gli investimenti fino ad oggi va ancora bene oppure se vanno riassettati un attimo. Ma un altro esempio che mi permetto di segnalare, prima abbiamo fatto riferimento all'ambito della pensione, no? Cioè questo grande mondo dell'integrazione pensionistica che peraltro sappiamo non si è sviluppato come ci si aspettava, eccetera eccetera, ma ci sono anche altre esigenze, quello per esempio dello studio dei figli. 20 anni fa questo era molto meno avvertito, oggi lo è molto di più, ma mettere le nuove generazioni nelle condizioni di avere le risorse adeguate e sufficienti per affrontare la vita del lavoro, la vita professionale, richiede un atteggiamento propositivo e mettere da parte delle risorse per tempo. È che qualche volta ci sono un po' delle percezioni come se certi temi non dovessero essere affrontati con il consulente finanziario perché appartengono ad un altro ambito della vita, no? È come se, esatto, come se si ha l'impressione che con il consulente si parla solo di quella quota che riesce a risparmiare e che ti rende un tot, e quindi bisogna far passare il messaggio invece che occorre condividere con questo professionista, e quello bravo te lo lascia capire, te lo fa capire, anche tutta la protezione del patrimonio, la consulenza assicurativa, tutto quello che protegge il nucleo familiare. Quindi c'è tutta una sfera di argomenti che con il consulente si possono e si devono affrontare. Questo forse è il grande salto di qualità che deve fare. Sì, la consulenza patrimoniale, poi, che è stata appena citata, è l'ulteriore evoluzione della consulenza finanziaria, perché per dire banalmente gli italiani sono grandi possessori di proprietà immobiliari, per dire, anche quello è un tema, come è un tema, perché rimane comunque centrale, l'efficientamento delle risorse finanziarie. Quindi il tema del rendimento non va assolutamente rimosso, ma magari presentarlo con altre logiche, il rendimento che è sempre accompagnato dal rischio e viceversa. Ecco, basterebbe cominciare da lì, e lì si fa già educazione finanziaria. Allora, perché il rapporto tra rendimento e rischio molto spesso viene taciuto, quando invece dovrebbe essere espresso, e all'interno di una corretta pianificazione avrebbe il suo naturale collocamento. La signora MIFID, speriamo che faccia qualcosa in questo senso, poi ne parleremo di questa gentile signora che arriva il 3 gennaio tra e tutti che noi. Che dovrebbe migliorare anche il nostro rapporto con chi ci segue nei nostri risparmi, ma tutto questo verrà discusso dopo il traffico. Due di denari. Tu sei Jimmy, giusto? È casa tua? Sì, proprio così. Sono il signor Wolf, risolvo problemi. Ah, bene, ne abbiamo uno. Allora, non è detto che abbiate un problema, ma sicuramente abbiamo magari l'esigenza di fare chiarezza sulle varie figure professionali che forniscono consulenza finanziaria, perché lo ricordava Deborah in apertura di trasmissione, ci sono state anche delle modifiche normative. Allora, beneficio del colto e dell'incrita, se possiamo dare un riassunto, noi possiamo andare in banca ed è la cosa più tradizionale. Solitamente lì, Gianfranco, troviamo allo sportello o alla scrivania un dipendente, un funzionario che lavora alle strette dipendenze della banca, che quindi è come un qualsiasi dipendente, no? È lì che vi fornisce i suoi suggerimenti, no, di investimento, e quello è che il lo negozio differenza, con i suoi articoli praticamente suoi articoli. Quello che lo differenzia rispetto, diciamo, invece a un'altra figura professionale che lavora sempre con un mandato per una banca, che è quella invece del consulente abilitato all'offerta fuori sede, perché può venire anche a trovarvi a casa e non soltanto dietro lo sportello, ancora, ma lavora sempre ancora, per ancora la banca. Chiamiamolo promotore finanziario. Promotore finanziario, per intenderci sempre, ok? Ma il discorso qual è? Che mentre in banca, diciamo, quel dipendente è la cosa che secondo me va sottolineata, è stressata all'inverosimile, non è il tuo consulente, perché la banca dopo 2, 3, 6 mesi te lo sposta da una filiale all'altra e quindi tu lo perdi di riferimento. Vai a costruire un rapporto di fiducia che poi, quando lo sei sul punto di crearlo, è eccolo che svanisce nel nulla, viene cambiato di sportello. Invece è molto alto questo turnover, chiamiamolo così. È molto alto. sistematico. C'è una strategia dietro, no, che è proprio, non ti consentono poi quindi di relazionarti ed avere quel rapporto fiduciario che forse il risparmiatore deve cercare. E lo trova, come abbiamo sentito la signora Edi, sulle figure professionali invece, che ti possono seguire lungo il tuo percorso. E abbiamo quindi, abbiamo detto, il promotore finanziario da una parte che lavora per un mandato con una banca, quindi abbiamo ormai diciamo delle storie che vanno più quasi di un secolo, no, ma quasi diciamo di soggetti che lavorano iscritti a un albo, e quindi anche lì vi consigliamo sempre, anche qui nella rubrica consigli pratici, di andare a verificare sul sito dell'albo, dove verificare se quel soggetto con cui vi raffrontate effettivamente ha le qualità, la professionalità con l'iscrizione all'albo per potervi fornire i consigli per gestire i vostri soldi, lo stresso sempre di più, questo concetto che non ci pensiamo veramente. Ma sono i miei soldi quelli di cui sto chiedendo, i quindi. Miei bisogni, e poi i miei obiettivi. Ci sono, no, che stanno crescendo come figure professionali, perché dovrebbe partire anche per loro l'albo a breve, i consulenti finanziari fee only, diciamo, coniando un termine. Si chiamavano indipendenti, adesso saranno denominati autonomi. Perché vengono pagati come qualsiasi altra figura, sono indipendenti per quale motivo, diciamo noi? Perché non hanno un mandato. Non, diciamo, hanno di una un banca. Legame con un intermediario ben preciso, e quindi fanno il servizio per il cliente e vengono pagati solo dal cliente, certo. A parcella, ecco il fee only da dove deriva. Quindi tu puoi andare da lui dicendo: io ho questi tre strumenti di investimento sui quali ho investito, e lui ti dice: vanno bene per te, piuttosto magari questo tarano meglio, eccetera. Ma non ti dice niente, esattamente. A 60 gradi. Il discorso è che lo paghi solo tu, non c'è la banca che lo paga dietro. E quindi cosa succede? Succede che hai sicuramente un rapporto. Indipendenza, non hanno conflitto di interesse, diciamolo così, ecco, questo è il primo ostacolo, ecco, dall'altra loro parte, dire no? Così, diciamo, il promotore te la deve dimostrare forse poi, no? Quell'indipendenza, no? Del fornirti quelle indicazioni, perché lavora per una banca. Da questa parte invece hanno un po' l'agevolazione, ecco, cioè, questo termine che mi passava, che sono facilitati dal fatto che hanno già questo cappello di indipendente, che non devono proprio dimostrarlo. Però diciamo che anche chi ha il mandato può assolutamente lavorare senza spingere, come ci raccontava prima Edi, no? E quindi in realtà noi siamo in grado, anche poi, se scegliamo il consulente che ha un mandato di una banca, di una... Scusami, se vuoi tenerlo per 25 anni il cliente, come raccontava la signora prima al telefono, per forza di cose devi fare l'interesse del cliente, altrimenti ti lascia dopo un anno. Presto o tardi il cliente si accorgerà che non stai facendo il suo interesse, ma magari quello invece più tuo, di personale, di... quasi mi verrebbe da usare un termine un po' brutale, di piazzista quasi, di un certo articolo. Se posso, su questo tema particolarmente stimolante, Orsino ricordava giustamente che esiste un albo pubblico. Ecco, abituiamoci a pensare che, come analogamente ad altre prestazioni professionali, quando ci si rivolge ad altri ambiti della vita di qualsiasi famiglia, esiste un albo dei consulenti finanziari. Si chiama così, organismo dei consulenti finanziari, che tra l'altro a partire dal prossimo anno, annovererà anche quelle figure fino ad oggi non censite né vigilate, che sono per l'appunto i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza, e che invece da oltre 25 anni annovera gli ex promotori finanziari, oggi, come veniva ricordato, consulenti finanziari abilitati al collocamento. Quindi quello già è un ambito distintivo. Vorrei aggiungere di più che persino le banche, che l'hanno capito per un certo aspetto, non per un altro, per esempio la continuità della relazione a cui si faceva riferimento prima, possono avere al proprio interno degli iscritti all'albo, pur rimanendo dipendenti. Quello che a noi interessa è che alla fine, visto che è altissima la percentuale di coloro che dicono che vogliono fare e continuano a fare da sé, ed è difficile pensare che siano tutti esperti di finanza e di mercati, quando invece le statistiche ci dicono esattamente il contrario, sappiano che c'è un albo professionale, è lì che bisogna puntare, è quello che bisogna valorizzare, perché poi le testimonianze di prima, e ripeto, non sono così isolate, ce lo dimostrano. Un albo, come diceva prima il Presidente, vigilato, e praticamente c'è un organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari. Volevo segnalare che oggi scrive anche un bel commento la Presidente di questo organismo, che è Carla Rabitti Bedogni, e proprio dà anche in questo caso gli strumenti per scegliere il consulente finanziario. Che fa al caso nostro. Allora Mauro, c'era qualche... vogliamo aggiornare i nostri ascoltatori sul sondaggio? Abbiamo un minuto di tempo prima dei saluti. La chiusura cosa ci dice? Allora ci sono dice il dato finale in questo momento, il dato ultimo che possiamo aggiornare dal Ministero dell'Interno è che... No, da non Twitter, è un exit poll. Da Twitter, naturalmente. Purtroppo, lo dico purtroppo anche per Gianfranco Ursino, 62% no. Resiste, mi fido solo di me stesso. Vabbè. Ma va bene, sono successe cose nel mondo del risparmio. Va bene, dico, va bene se la gente effettivamente è preparata, esatto, a gestire, no, dedica un po' di tempo ai propri risparmi. Il problema qual è? Che con i mercati, che vediamo che ormai i tassi di interesse sono a zero, sotto zero. Abbiamo i mercati poi che ti spingono a prendere fuori rischio, quindi devi andare sull'ottovolante della borsa, che la gente poi lo vedi che non è preparata dal punto di vista emotivo a gestire questi rischi. Poi vanno sui bitcoin e qua sono dolori. Presidente, chissà cosa non vedremo, insomma, altro che le obbligazioni subordinate. In 10 secondi le posso chiedere che ne pensa di questa storia qua? No, sui bitcoin non mi pronuncio. Ho recentemente twittato bolla o non bolla, immagino che sia un fenomeno destinato a rimanere, però da usare non con cautela, di più. Tra l'altro anche voi affrontate il tema dell'innovazione tecnologica, che riguarda la consulenza con Robo Advisory, ma ne parleremo in un'altra puntata, l'aspettiamo presto. Volentieri. Perché adesso Peter Bescapè, che è arrabbiato con me perché non abbiamo parlato dell'imperiosa affermazione dell'Inter sul Pordenone, ma per carità, ci fa ampi cenni, dai, vabbè, calci di rigore, va, due su. Di denari ritorna domani alla stessa ora. E domani c'è anche Investire Informati, quindi vi aspettiamo anche domani su questi argomenti. Buona giornata a tutti.